qui tutta la vita. A te politico cosa vuoi che dica? Solo parole di disprezzo nel cuore. Parole, parole, solo rabbia e rancore. Le sputo fuori su queste rime. Terror level non avrà mai fine. In prima linea a potervi giudicare. L'umimo lo fusco un ribellino e piscolo compare. Indietro con gli anni adesso io voglio andare. Che se penso la merda passata non viene da vomitare. Stanco per questa fece voglio scappare. Quel tipo in cravatta cavaliere si faccia male. Povera la gente ignorante che ama la mente. Alla mente offuscata da chi promette una vita migliorata. Che cazzata penso alla gente truccata da quel titano. Che signore lui ha voluto incontrare. Tanti di questi credi che nessuno vuole svelare e raccontare. Non voglio un futuro veloce. Gli errori che hanno portato a queste situazioni. È per questo che noi siamo in queste condizioni. Peggio del passato, dalla quale si è scappati con le menti. Il CPC, AN, tutti quanti delinquenti. Gli errori che hanno portato a queste situazioni. È per questo che noi siamo in queste condizioni. Peggio del passato, dalla quale si è scappati con le menti. Il CPC, AN, siete tutti dei vedenti. Tutti infamellati senza paura lo grido. Credimi, non mi identifico in nessun partito. Votami sì, che ti faccio lavorare. Uccidi un paio di persone tanto per cambiare. La mafia ancora esiste perché voi siete mafiosi. Un nuovo Falcone lo uccidete senza rimorsi. Inutile negarlo perché noi non siamo scemi. Anzi sì, forse lo siamo perché ancora vi votiamo. Fermo su sto beat a pensare a quello che ho da dire. A favore, contro e progredire. Ma se c'è una cosa che ho da dire, che nessuno qui deve partire dal passato. Ripartire e far venire ciò che è stato l'avvenire. Dato poco stato, molto grave, quasi sempre allevato. Ciò che ha dato a chi presenta è migliorato. Con le proprie forze ha combattuto, ma sempre ha perduto. Nulla ha potuto, maledettamente resta muto. Gli errori che hanno portato a queste situazioni. È per questo che noi siamo in queste condizioni. Peggio del passato, dalla quale si è scappati con le menti. PCPC, AN, tutti quanti delinquenti. Gli errori che hanno portato a queste situazioni. È per questo che noi siamo in queste condizioni. Peggio del passato, dalla quale si è scappati con le menti. PCPC, AN, siete tutti dei vedenti. Che ha portato a queste situazioni. È per questo che noi siamo in queste condizioni. Peggio del passato, dalla quale si è scappati con le menti. PCPC, AN, tutti quanti delinquenti. Gli errori che ha portato a queste situazioni. È per questo che noi siamo in queste condizioni. Peggio del passato, dalla quale si è scappati con le menti. PCPC, AN, siete tutti.